Beh, allora iniziamo. E... allora, parlo al microfono così come uno scemo, perché stiamo trasmettendo in radio, quindi non è amplificato, ma serve solo per trasmettere anche in radio. E niente. E, se volete, abbiamo anche una web radio che... di cui si può parlare a latere. Tornando a noi, volevo ringraziare tutti e tutte per essere venuti e venute qui oggi, e abbiamo voluto organizzare questo momento, diciamo, diverso dai classici momenti a cui siamo abituati, diciamo, noi con, che abbiamo a che fare con l'hip hop. È un momento per discutere un po' tra di noi, tra diversi ambiti, diciamo, di gente che ha a che fare con l'hip hop in varie forme. E lo facciamo diciamo partendo da una riflessione che oggi sono 10 anni che facciamo un laboratorio hip hop qui a ZAM nel centro sociale, e alcuni di noi ci conosciamo da tanto tempo, quindi non sto qui a spiegare, a raccontare che cos'è stato e che cos'è il laboratorio hip hop di ZAM. Sono passati tanti anni, quindi noi ci siamo un attimo fermati a riflettere su come siamo cresciuti noi in questi 10 anni e come abbiamo visto crescere anche la scena in generale in questi ultimi 10 anni. E quindi abbiamo voluto fare un ragionamento che girasse intorno al concetto della crescita, in quanto abbiamo notato che oltre a essere cresciuti noi anagraficamente, è anche cresciuta numericamente la scena, gli ascoltatori del rap, sono aumentate le persone che lavorano con l'hip hop o comunque negli ambiti hip hop, sono aumentate le vendite degli artisti, è tornato di in gran voga il vinile, tant'è che è quasi una materia prima introvabile, e più o meno questo noi lo riconduciamo al fatto che il rap in quanto tale, da fenomeno di nicchia a cui la maggior parte di noi erano abituati, cioè per chi è della mia generazione, ma anche quelli un pelo più piccoli, una volta ascoltare il rap era una sorta di stigma, no? Cioè eravamo quelli con i pantaloni larghi, i baggy, eccetera eccetera, una specie di piccola setta. Invece adesso, comunque, a quello che abbiamo visto, il rap comunque è un genere sdoganato che attraversa tutti i luoghi, in tutte le forme, eccetera eccetera. Poi non siamo entrati nel merito di come fosse, di come sia questo rap che diciamo ha raggiunto tutto e tutti. Adesso vediamo che adesso Sanremo, gran parte degli artisti sono più o meno ascrivibili a quella che è la scena hip hop, comunque la musica rap. E quindi questa è una prima valutazione che volevamo fare, un primo elemento di discussione che volevamo tirare fuori. L'altra questione è che in questi 10 anni ci siamo resi conto di aver tessuto davvero davvero tantissime relazioni con miliardi di soggetti e soggettività, cioè da crew strettamente legate all'hip hop come per esempio Pavia Male, che sono anche qui oggi con noi, che sono un gruppo con cui abbiamo collaborato in miliardi di occasioni, abbiamo invitato a suonare a jam, concerti eccetera eccetera, e loro a loro volta hanno invitato noi, ci hanno coinvolto in situazioni organizzate da loro a Pavia, in una realtà diciamo di provincia diversa da quella di Milano. E così è stato in tanti settori, quindi abbiamo conosciuto persone che si occupano di hip hop nell'ambito dell'educazione, quindi tutto il mondo associativo che attraverso l'hip hop cerca di portare avanti progetti sociali per aiutare persone in difficoltà, spesso e volentieri minori, persone che hanno necessità di esprimersi, eccetera eccetera. Ma ci siamo anche interfacciati con tra virgolette professionisti del settore come per esempio Mood Magazine o Metallo e Cemento, cioè riviste di settore specializzate in un ambito culturale musicale che è quello dell'hip hop, che negli anni, fin dal primo momento, hanno trovato un po' di spazio nelle loro pagine per raccontare la nostra esperienza e che in qualche modo abbiamo supportato e ci hanno supportato. Questa reciprocità l'abbiamo rivista in tante situazioni e ci piaceva trovare il momento per tirare le file anche di questa cosa in un momento che fosse, diciamo, di discussione, che anticipasse poi la festa di questa sera. In realtà, siccome sono passati 10 anni, potrei andare avanti a parlare 600 ore, ma siamo qui già da un po', quindi direi che potremmo cominciare a discutere tra di noi. Vi ringrazio di nuovo per essere venuti. Se volete qualcosa da bere, fate un cenno e ve lo faremo avere. E cedo la parola a Cesa, che modererà la discussione. Quindi un po' il tema, il focus della discussione, del confronto di oggi è riflettere un po' su come è cambiato e si è evoluto l'hip hop e il rap negli ultimi 10 anni. 10 anni come, diciamo, periodo temporale indicativo, ma insomma come si è evoluto l'hip hop nel tempo fino ad arrivare a oggi e a 360 gradi. Quindi, come dire, è un po' ampio come argomento. Però insomma ha un sacco di sfaccettature potenzialmente molto interessanti su cui riflettere ed approfondire, eccetera, eccetera. E come primissima cosa che proponiamo, visto che magari alcune persone non si sono mai viste, facciamo un giro di presentazioni brevissime, quindi chi siamo, di che crew, realtà, eccetera, facciamo parte, e provare ognuno e ognuna a dire una cosa, la prima cosa che gli viene in mente, in cui l'hip hop è cambiato e si è evoluto negli ultimi 10 anni. Quindi, beh, parto io sono Cesa, faccio il rap con la Rap Caverna e faccio anche parte della 232, che è un'associazione con cui facciamo laboratori di rap in carcere, nelle comunità, nelle scuole, un po' ovunque. E come cosa in cui secondo me il rap e l'hip hop è cambiato è il modo in cui le persone conoscono nuova musica, sia tipo neofiti, cioè chi non ha mai ascoltato niente, ragazzini piccoli che iniziano a entrare insomma in relazione col rap, sia noi che conosciamo nuova musica. Se io ripenso a 10 anni fa, o come io da ragazzino ho conosciuto il rap, cioè a me è arrivata una chiavetta di un mio compagno di classe con dentro 100 canzoni e io ho conosciuto il rap così. Non so quanti ragazzi di oggi entrano in contatto col rap in questo modo. Ecco, questo era un tema che potrebbe essere interessante. Bella a tutti, io sono Tusco, sono un rapper, sono della crew Pavia Male di Pavia e beh, innanzitutto voglio dire buon compleanno a Zan perché è una realtà in cui noi, come diceva prima Orso, siamo cresciuti in questi anni e sicuramente una cosa che è cambiata dal punto di vista sempre dei laboratori, che adesso è molto più possibile integrare anche nel mondo dell'educazione. Il rap e la cultura hip hop, essendosi diffusa tantissimo, soprattutto tra i più giovani, e quindi c'è la possibilità, magari rispetto a 10 anni fa, di fare molto più laboratori, sia nelle scuole, e comunque far diventare, oltre che musicalmente, questo anche un lavoro o qualcosa anche nel sociale. Un'altra cosa, sono molto più gli spazi anche virtuali dove incontrarsi. Questa cosa è interessante perché offre nuove possibilità e potenzialità, ma forse potrebbe aver indebolito la parte de dell'aggregazione e dell'incontrarsi, magari banalmente in giro a far freestyle o niente, questo. Bella per tutti, bella per Zam e auguri. Sono DJ Ghost della crew Pavia Male, DJ e produttore. Che dire, sicuramente la mia impressione rispetto a il mio inizio è stato un po' simile al suo, quindi una chiavetta fondamentalmente con un bel po' di pezzi. Sicuramente rispetto a quando ci siamo appassionati noi al genere, ora è molto più fruibile e, come si diceva in precedenza, più in generale proprio più ascoltato e più presente nella nostra società, diciamo l'hip hop. Sicuramente questo è un bene. Ci sono, da un certo punto di vista, io vedo anche un ritorno di alcune figure importanti che non sono mai mancate, ma che adesso ci sono con una certa presenza importante rispetto magari a un periodo dove nell'hip hop è stato tutto un po' più oscurato. Quindi adesso, oltre alla figura del rapper, ci sono tanti DJ, io ovviamente ho magari un occhio di riguardo per questa questione, tanti DJ di cui si sa il nome, 2P o comunque nomi insomma come lui, che partecipano attivamente a progetti comunque molto importanti e tengono ancora insomma salda una delle figure importanti del, una delle discipline della, della nostra materia hip hop. Ciao a tutti, io sono Roberto in arte Mass, faccio parte del collettivo di Voci di Periferia e auguri allo ZAM. E secondo me una delle cose che è cambiata ultimamente è anche un po' il modo di comunicare. Io ho un fratello un po' più piccolo rispetto a me, lui ha 16 anni e già vedo che rispetto a me il modo di vedere le cose, di comunicare, di esprimersi sta già cambiando. Quindi questa è sicuramente una delle cose che è cambiata. Grazie. Ciao a tutti, sono Claudia, sono qui a rappresentare Mood Magazine. E che dire, il mio primo approccio al rap è venuto un po' come tutti i ragazzi della mia generazione, un po' grazie anche agli Articolo 31. E, diciamo, riflettevo su questa cosa, che in effetti chi come me forse si è avvicinato al rap un po' con quell'imprinting un po' da posse, no? Anche se gli Articolo 31 erano palesemente mainstream, comunque arrivavano ormai al grande pubblico, c'era una cerchia di ragazzi che erano dei seguaci ma che seguivano un credo, e quindi era palesemente un'origine da appunto problematiche tra virgolette sociali che crescevano lì. J-Ax, diciamo, era il portavoce di noi giovani che volevamo la differenza, però basandosi sempre sulla conoscenza. Quello che, diciamo, gli fa onore a distanza di tempo è che lui ha cercato un pochettino di dare delle basi, ecco, di cultura. Non diceva ragazzi drogatevi, diceva studiate per poi abbattere le leggi, insomma, per pensare con la vostra testa. E se c'è una cosa che sto notando ultimamente, appunto lavorando, facendo interviste, approcciandomi con i giovani che si avvicinano al rap, che forse il rap non sta più unendo ma sta dividendo, perché ci sono queste faide appunto di giovani che seguono ormai rapper famosi che ormai parlano di certe tematiche, magari sono già quelli ormai grandi che hanno smesso di parlare di alcune cose che ai tempi per loro erano fondamentali e adesso si stanno, diciamo, dilungando su argomenti un po' più superficiali, parliamo così. E per esempio c'è stata la Dark Polo Gang, che purtroppo è stato un male secondo me, perdonatemi, non so se la pensate alla stessa maniera, che ha cresciuto una generazione dandogli dei cattivi messaggi, insomma diffondendo delle priorità che non sono la base, diciamo, dell'hip hop, ma anzi tutto l'opposto. Però il bello di questa cultura è anche che è molto vasta e quindi ci sono tantissime scuole di pensiero, e c'è il rap appunto legato alle tematiche sociali, rap conscious, rap gangsta, quello, quell'altro. Però in Italia mi sembra un po' banale, cioè per me la nostra impronta è proprio quella delle posse, e seguire appunto questa linea di pensiero è un po' più logica. Poi per carità, il rap da far festa, il rap per divertirsi fa sempre bene, si è fatto bene, però noto questa cosa qua, cioè una cosa che mi disturba e mi distrugge allo stesso tempo è che i giovani d'oggi non sanno cos'è il rap, cioè hanno l'idea totalmente sbagliata, come se fosse diciamo l'obiettivo è quello appunto di essere figo, avere soldi, avere le macchine, drogarsi e basta. Infatti è bello parlarne, anzi mi ricorda moltissimo un mio viaggio fatto a Roma dove ho percepito proprio quell'atmosfera proprio rap, nei piccoli centri sociali si parlava, c'erano molti dibattiti, li ho vissuti tutti e sono molto interessanti. E vederla qui a Milano, io da forestiera, come sul dire, abito qua a Milano da qualche anno, mi fa piacere comunque vedervi e sentirne parlare, e colgo l'occasione anche per farvi gli auguri per questi vostri 10 anni. Passo la parola al prossimo. Chi vuole parlare? Qualcun altro? Io faccio da porta microfono per gli amici e le amiche in radio che non vedono cosa sta succedendo. Ciao a tutti e tutte, io sono Jacopo, Pulsar Uranio, faccio parte della Rap Caverna Posse, Zami Pop Lab, e diciamo, io mi sono approcciato all'hip hop in maniera abbastanza casuale, cercando, diciamo, qualcosa che potesse aiutarmi ad esprimere le emozioni di un ragazzino che, diciamo, non era contento di tutto quello che aveva intorno, che viveva, che ascoltava anche. E quindi il rap all'inizio è stato soprattutto un modo per imparare a pensare in maniera più matura, aiutarmi a riflettere su delle frasi che potevo ascoltare nei pezzi, o anche solo dei concetti, delle parole, insomma, per arricchirmi proprio culturalmente e aiutarmi anche a, come dire, ad ascoltare meglio, a concentrarmi meglio sulle cose che sentivo, e quindi il rap per questo per me è stato anche un aiuto a svilupparmi, a esprimere i miei pensieri, i miei concetti, a imparare a parlare meglio a livello proprio di dizione, e quindi mi ha aperto, diciamo, una finestra sul mondo come niente altro prima aveva fatto. E quindi io sono sì, grato a questa cultura per essere sempre, diciamo, parte del mio vissuto e della mia identità. E quindi, diciamo, che ho trovato all'interno dello Zami Pop Lab l'ambiente migliore per poterla vivere in maniera veramente attiva e diciamo anche con una funzione critica dell'esistente, della società, della politica, e insomma tutta una dimensione che per me si sposa con quello che faccio, sia a livello musicale, artistico, sia a livello proprio di vivere quotidiano. E per me l'hip hop negli ultimi anni è, diciamo, sicuramente l'evoluzione della tecnologia ha influito sulle maniere sulle modalità di fruizione dei contenuti che ormai non si limitavano più alla sola musica, ma a tutto il resto, tutto quello che gira intorno, fino al gossip più becero. E questa cosa, diciamo, ha distorto la percezione della musica stessa, per non dire della realtà di un sacco di gente, soprattutto delle nuove generazioni. C'è proprio anche una maniera diversa di approcciarsi alla musica, o alla curiosità, diciamo, dei giovani è indirizzata, non è indirizzata troppo magari verso il modo di far chiudere le rime, ma in quello di cui, diciamo, stai parlando, se magari ti anche rifai un po' a dei modelli un po' diffusi. Certo, questo è un fenomeno che magari succede periodicamente quando c'è una nuova tendenza, però, o più nuove tendenze che si incrociano, però, diciamo, considerato anche il tipo di contesto in cui viviamo attualmente a livello sociale e politico, secondo me quello che dovremmo cercare di fare in quanto persone cercano di vivere l'hip hop, di spingerlo dal basso, cercare di influire su questi processi, trovare il modo giusto senza snaturarli, ma riuscendo ad averli come, diciamo, come amici, come strumenti di rapportarsi con il resto del mondo. Quindi dall'andare ad ascoltare anche nuovi generi, conoscere, approfondire, non trattare magari i più giovani che ascoltano musica diversa da noi in maniera quella non è musica che fa per me, ma cercare, come dire, di capire che cosa sta dietro a quelle dinamiche diverse di fruire della musica e di tutto quello che sta intorno soprattutto. Beh, ciao a tutti, io sono Siddi Enrico, anche io di Rap Caverna Post, Zami Pop Lab, ma più che dire qualcosa io volevo lanciare un sasso, uno spunto, cioè seguendo un po' il filo della discussione che che appunto come è cambiato l'ascoltatore, non soltanto il genere, negli ultimi 10 anni. E vorrei fare una piccola domanda, anche un po' per contestualizzare di più. Cioè, secondo voi è una cosa che ha a che fare con il contesto, il panorama italiano, o è qualcosa che cambia a seconda, insomma, del contesto culturale? Perché allora questo significa, cioè, vabbè, un po' sì, è la seconda, secondo me. Cioè, nel senso che questa cosa un po' non è, cioè, così come è successo in Italia, è successo anche in altri paesi, così come in altri paesi invece era già, tra virgolette, sdoganato, se vogliamo andare proprio nel luogo di nascita dell'hip hop. Negli Stati Uniti non, cioè, il rap è da mo che è sulla televisione, insomma, si vende a livello commerciale, eccetera. Mentre, non so, in Italia, per esempio, ha dovuto evolversi, cambiare e un po' piegarsi, tra virgolette, per poter diventare commerciale, fare questo salto in avanti. Quindi le cose dipendono dal contesto, probabilmente sì. E quindi allora forse oggi stiamo, il rap che vediamo oggi è lo specchio del contesto qui, del contesto sociale che stiamo vivendo negli ultimi 10 anni, secondo me. Bella, io sono Marco, detto Marmorain, entrato da poco in RCP, e il mio, diciamo, primo approccio fu da ragazzino, quando appunto vidi questi esempi qua che stava dicendo Sidi, americani. Poi mio fratello mi fece ascoltare i primi pezzi italiani e mi innamorai subito di questa cultura. Credo che solamente, voglio solo dire che credo che sia appunto specchio e immagine della società, tra virgolette, la cultura musicale. E in più, siccome mi viene da dire in questo modo, diciamo la cultura italiana si sta rifacendo sempre di più tramite mezzi di comunicazione alla cultura globale e viceversa, forse c'è stato un progresso, comunque una successione di cause barra anche eventi che hanno portato la musica hip hop a essere così conosciuta in questo momento. Non so se mi sono espresso al meglio. E niente. Ciao a tutti, sono Maurizio, Pneuma, Testa Mala, l'orco di Cinisello. Effettivamente, dopo l'intervista fatta con Mass, ho pensato come mi ero approcciato al rap italiano. In realtà mi aveva passato un disco masterizzato di Articolo 31, un mio amico che giocava a calcio con me. È da lì che ho avuto il primo disco. Poi invece il mio primo comprato è stato con Fabri Fibra. E nel 2010, quindi 12 anni fa, se non sbaglio, su MTV inizia Spit. E quindi io da Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo, in Piemonte, cioè, mi sono detto: cacchio, se va in televisione vuol dire che effettivamente, cioè, sta crescendo. Ovviamente stava crescendo, però è anche vero che ne parlavo con pochissimi, se non con la mia ragazza e una persona, del rap, cioè, perché comunque in provincia, molto provincia, nonostante c'era già su MTV rapper famosissimi e rodati, che secondo me comunque rappresentavano, non è che ha messo dei freestyler belli o gente a caso, gente che comunque ha fatto la sua gavetta. Effettivamente però in provincia questa roba qua non si respirava per niente. Venendo a Milano, diciamo, ho respirato più hip hop, anche grazie allo ZAM Hip Hop Lab, ho ampliato proprio gli ascolti e sono andato a scavare a fondo. Secondo me è positivo comunque che si allarghi il genere, perché come io ho iniziato col disco di Tradimento di Fabri Fibra e mi sono andato a spulciare i dischi, veramente, vabbè, i primi dischi che sono stati pubblicati in Italia, ovviamente lo fanno tanti altri ragazzi, quindi secondo me questo è positivo. E cos'è cambiato, non so se in questi 10 anni, comunque in generale, secondo me sicuro è non la riproduzione del brano, ma proprio il produrre la musica. Cioè, prima era una roba un po' di nicchia, e comunque correggetemi se sbaglio, è anche vero che, diciamo, chi produceva, i primi produttori non è che erano gente di strada che non c'aveva due cose, doveva avere una minima strumentazione, perché era anche difficile da recuperare il tutto. Quindi diciamo che adesso sicuro lo possono fare quasi tutti, se non tutti, e ci avrà il suo riscontro negativo, però in realtà è la cosa, cioè, più pop che si possa avere, cioè alla fine fare riprodurre questo genere musicale dai mezzi che hai a casa, da un computer marcio, può iniziare ad appassionare questa musica. Gli altri generi musicali non è che devo screditarli, figuriamoci, però devi imparare a suonare uno strumento, è una roba un po' più complicata, un po' più lunga. Invece, secondo me, la figata e il cambiamento è stato anche proprio nella produzione di questa musica, che è molto più facilitata e accessibile a tutti e a tutte. Ciao, io sono Jacopo Iax di Rap Caverna. Vabbè, insomma, se ripenso a questi, cioè, insomma, alla nostra esperienza, cioè, io penso che il periodo in cui ci siamo avvicinati al rap, appunto con le modalità, anch'io alla fine avevo ascoltato musica che mi era stata passata, da cui avevo scoperto, forse il primo disco rap che ho sentito veramente, ero abbastanza piccolo, è stato Lingua Ferita di Lord Bean, che è stato uno dei primi dischi, almeno che io sappia, del rap italiano a essere distribuito online, gratis, cioè tipo in streaming. E in pratica all'inizio, nel fare rap, nel cominciare a fare le prime jam, a scrivere le prime cose, appunto mi sentivo molto parte di un qualcosa che era molto in divenire, che era, cioè, che stava in realtà già vivendo la sua età, e forse già l'aveva già vissuta la sua età migliore, però insomma era già esploso come genere, ma mi sentivo parte di una famiglia, appunto, tutti, come dice Esa, dispersi per il globo, tutti con lo stesso scopo. Mi sentivo parte di, appunto, un qualcosa che mi permetteva anche di criticare la mia vita quotidiana e le cose tramite questo strumento, che comunque era un qualcosa di nuovo. E, insomma, questa sensazione oggi ovviamente non c'è, cioè non è che non ci sia più, è molto cambiata per vari motivi, sia che sono stati già detti ampiamente su come si è evoluta la distribuzione, la fruizione della musica, eccetera, ma anche, diciamo, gli aspetti più positivi forse sono che adesso alla fine il rap è un genere molto maturo, sono stati snocciolati anche molti avvicinamenti a altri generi musicali, così, quindi in sé, dato che ne esiste ancora tantissimo e ne viene ancora prodotto tantissimo e anche di qualità ottima, in realtà sì, è un genere che da una parte, specie in Italia, nella distribuzione della musica più commerciale, così, di sicuro, diciamo, ha vissuto una certa degenerazione, però è anche un genere che in realtà è cresciuto tantissimo ed è diventato una cosa talmente diffusa che non mi stupirebbe, appunto, di trovare il nuovo artista che non conosco che c'ha delle tracce assurde e che dice delle cose intelligenti. E intelligenti vuol dire, alla fine, boh, che ti stimolano, che ti fanno emozionare. Quindi in realtà, appunto, tutto questo, cioè il rap continua a crescere e il fatto che diventi mainstream si porta i suoi effetti collaterali. Nel senso, secondo me, alla fine è una cosa positiva, perché lo rende più accessibile a più gente. Allora, dico due cose anch'io, non mi ripresento, che tanto mi sono presentato all'inizio, cogliendo soprattutto un po' degli spunti che sono usciti adesso. Allora, faccio una piccola provocazione, ma vi chiedo di rispondermi, perché secondo me voi siete molto più colti di me dal punto di vista musicale, quindi sapete anche rispondere meglio. A me sembra che in Italia la musica rap che diventa, diciamo, mainstream, è una coppia sbiadita, riadattata, italianizzata di qualcosa che arriva dall'estero, che tendenzialmente per anni sono stati gli Stati Uniti. Poi nell'ultimo periodo sono state anche l'Inghilterra, ma anche e soprattutto la Francia, con tutta l'ondata di un certo tipo di trap. Posto che a me piace un po' tutti i tipi di musica, anche quella ignorante, eccetera, eccetera. Mi sembra che il problema della il punto focale sia che non si riesce a creare, a generare un sound italiano, ma non, che non vuol dire niente, cioè peninsulare, non so come dire, caratteristico di questo territorio, che in qualche modo detti scuola anche altrove o che qualche modo, e quindi non c'è mai una tendenza, cioè, o meglio, ci sono tantissimi rapper che lo fanno, ma che non riescono a diventare rapper di successo. C'è una tendenza tendenzialmente a non riuscire a valorizzare l'originalità e la differenza che inizialmente erano le principali caratteristiche del rap. Cioè, se tu suonavi vagamente simile a un altro, venivi dissato subito dall'originale e venivi in qualche modo accantonato. Adesso invece mi sembra che la tendenza sia a sfornare MC fotocopia di altri MC, proprio sull'onda di quello che diceva anche Claudio prima, rispetto al tipo di rap, il motivo per cui tanti fanno rap. Quindi non è che voglio cercare il pelo nell'uovo a tutti i costi, perché effettivamente tutte le cose che sono state dette sono vere. Cioè, se una volta per fare un beat dovevi spaccarti la schiena a fare il magazziniere per comprarti gli strumentazioni necessari, giradischi, Technics, non ne parliamo, cioè roba proprio che devi fare i salti mortali per poterli avere. Oggi ti scarichi un programma craccato da qualche sito con un computer all'incirca raffazzonato, una spesa abbastanza relativamente bassa, puoi produrre anche dei buoni beat, cioè, nel senso che ci sono tanti produttori che mi dicono sì, no, io uso questo e quell'altro, ma ho fatto anche dei beat bellissimi con Fruity Loops, eccetera, eccetera. Quindi è vero anche tutto questo aspetto, e del fatto che la tecnologia permette, come diceva anche Tusco, di creare nuovi luoghi di incontro virtuali, ma secondo me anche fatto tutto il periodo Covid, eccetera, eccetera, è come se una nuova generazione si fosse cristallizzata sul fatto che è così e basta. E che quindi, e non voglio essere polemico, cioè ci sono tanti MC magari anche con un seguito che non sono assolutamente in grado di fare un live anche minimo banale, di tenere un microfono. Cioè, comunque i maggiori artisti di successo non rappano, non cantano le loro canzoni, c'è un disco sotto che va, loro recitano parte della loro esibizione, performa, non so come definire, però non stanno cantando, non stanno rappando. E quindi secondo me questo non è un difetto in toto, è secondo me anche il risultato di una condizione storica sociale che si è verificata, che ha dettato, diciamo, una condizione, e quindi ha fatto crescere delle persone che non avevano mai visto una cosa prima in un certo modo. Secondo me la sfida, ed è un po' secondo me quello che ognuno di noi nel suo piccolo, nei vari modi, cerca di fare nel quotidiano, è provare a rilanciare con momenti di aggregazione che non vadano a collidere con, diciamo, il mood del momento, ma che vadano a provare a stanare anche altre questioni. E quindi organizzare una jam, organizzare un laboratorio, organizzare, fare delle interviste, incontrarsi, fare i banchetti alle serate, sono tutti modi che servono per sfondare sto muro che c'è di isolamento, che in parte è dovuto alla condizione, ma in parte è anche vero, e secondo me bisognerebbe anche ammetterlo, che è dovuto anche alla forte competizione che c'è. Perché man mano che la fetta di torta è diventata sempre più grossa e che il piatto era sempre più ricco, comunque ha fatto gola e fa gola a più persone. Quindi la competizione, invece che la competizione sana di una sfida dove le tue skills, dove mi batti, diventano l'allenamento che devo fare o una nuova conoscenza che ho, si punta all'annientamento dell'avversario per fare piazza pulita dei competitors e stare alla classifica. Ma ce n'è uno che sta top in classifica, tutti gli altri no. E quindi è una continua macelleria di giovani rapper, secondo me, che nascono e crescono sperando di diventare Sfera Ebbasta, ma Sfera Ebbasta è uno, non ci sono non ci posso, ma proprio per definizione, per come è fatto il mercato musicale, per come è fatta anche purtroppo anche la cultura oggi nell'hip hop non c'è spazio per 10 Sfere Basta, 15 Fabri Fibra e 20 Gue Pequeno, ce n'è uno, e quindi questa competizione è, secondo me, è insana, e quindi secondo me è importante creare situazioni che diano la possibilità a tutti e tutte di esprimersi, di raccontare quello che uno prova, quello che uno fa, per cercare di andare al di là della mera competizione, che secondo me non ci porta da nessuna parte in questi termini. Quindi secondo me questo è un grosso elemento di cambiamento rispetto al passato, ma non perché nel passato non ci fosse la competizione, ma perché nel passato magari la competizione era sullo stile o su quello, perché tanto soldi non ce n'era per nessuno, quindi cioè si sfidavano i breaker per essere i più stilosi, ma non perché poi vincevano $10,000, perché non c'erano $10,000 per nessuno. Adesso è diverso, cioè fanno la competition Red Bull di breaker, tra l'altro b-boy potentissimi, tutti devastanti, però lo fanno al teatro con l'ingresso che costa €45, e che la gente che ha cresciuta con i b-boy e jam non ci può andare, perché non si può permettere €45 per andare a teatro a vedere una competizione di breakdance, che dovrebbe essere la roba più di strada in assoluto. Quindi non so, cioè una delle cose che io c'avevo in testa rispetto alla giornata di oggi era di uscire con dei meccanismi di, permettetemi il termine, di collettivizzazione delle esperienze, e quindi cercare di fare in modo che l'esperienza di ognuno diventi tesoro per un altro, e che vada non a oscurare ciò che fa e a cercare di grattare all'operato, ma a cercare invece di rimpolpare con altre cose, altre situazioni, cercare di aiutarci uno con l'altro, a partire da più o meno una visione comune che mi sembra sia emersa in questo primo giro di interventi che abbiamo fatto di presentazione. Poi se c'è qualcuno che è arrivato dopo l'inizio, che vuole intervenire, gli passiamo il microfono, anzi sarebbe interessante sapere cosa ne pensa, o chi c'era dall'inizio che magari ha voglia di parlare, che non ha ancora parlato, mi taccio. Ok, mi sentite? Si sente? Non si sente? Ok. Allora, guardate, io mi chiamo Fabio, sono di Pavia, sono insieme ai miei fratelli di Pavia Male, ok? Ecco, non so se quello che posso dirvi mette lì alcuni aspetti di ragionamento. Tra l'altro tu in parte hai un po' tirato una sorta di primo giro, no? Rispetto, quindi è chiaro che diventa complicato entrare lì. Colpa mia, dovevo parlare prima, alzare la mano e ecco. Allora io vi provo a mettere questo aspetto del ragionamento. Allora, la cosa che dicevi tu, ecco, secondo me è l'ABC, cioè la questione del contesto. È il contesto che va analizzato, Ve lo dice, ragazzi, ma lo dico in modo molto sommesso, in modo tranquillissimo e così via. Uno che, cioè, vado per i 52, così ci capiamo, no, anzi li ho già avuti, vado per i 53, ecco, quindi il pezzo che c'è stato di anni fa me lo sono in parte visto, ed è chiaro che il contesto determina tutto quello che accade. Quando ero un ragazzo che avevo probabilmente l'età di alcuni di voi che sono qui presenti, non è che i film che state vedendo oggi non li ho visti, c'erano già, perché tutto andava in una direzione precisa. Per quanto la tua società va in una direzione, si determinano un po' tutti gli aspetti. Oggi siamo in una situazione dove l'hip hop è vero che è sdoganato, no? Tutti lo fanno, però peccato che la maggior parte non lo fa secondo dei ragionamenti che stanno a noi a cuore, e questo è il tema, no? Provate a fare un'altra cosa, spostate questa finestra in un angolo e ne aprite un'altra, no? Io nel mio lavoro faccio il sindacalista. Chi di voi ha una minima idea di cosa accade anche sul piano del lavoro, della tenuta sociale, dei valori che tengono insieme la società, di tutti questi ragionamenti che si riportano poi in un genere come quello che noi facciamo, perché è vero che noi parliamo della nostra vita, che è la vita, la mia, la tua, la sua e quella degli altri, è chiaro? Ecco, benissimo. Allora, alcuni aspetti che già c'erano allora, primi anni 90 per capirci, che secondo me mi fanno pensare questo, nessuno si offenda, ma che anche chi allora poteva determinare una direzione ne ha scelta un'altra, perché è chiaro? Italiano puro, cioè chi allora poteva determinare una direzione rispetto al movimento dell'hip hop, poi ha fatto una scelta diversa e l'ha girata da un'altra parte. Poi la società si è evoluta, è diventata quella che è diventata, no? Ognuno per sé, Dio per tutti, chi cazzo se ne frega, non funziona un cazzo, siamo tutti morti e tanti belli saluti. Più poi ci sono le copie, no? Di quelle, le copie, delle stracopie, delle fotocopie, della carta carbone, no? È perfetto. Bene, allora, in tutto questo insieme, guardate, adesso ognuno fa il suo pezzo, no? Io sono contento di stare a Pavia con sti ragazzi qui, perché quello che stiamo facendo lo stiamo facendo con un'idea che è di recuperare il pezzo dell'hip hop nel quale pensiamo che ci siano valori. Forse bisogna ripartire da lì, forse, la dico così, che non significa che è merda tutto quello che c'è in giro, non sto dicendo quello, non mi fraintendete, anzi, ci sono in giro tante belle cose, no? Tante persone in gamba, tante persone che sanno fare, idee, modi nuovi di fare, modi nuovi di ascoltarsi. Io stesso quando ascolto le robe, che poi ascolto le mie, dico forse è meglio se vado in una RSA, così trovo qualcuno che mi cura, no? Quindi non tutto è perduto, ma di fatto c'è che comunque il contesto determina qualunque cosa, compreso quello che noi facciamo. Cioè, c'è poco da fare, Cioè, noi possiamo far finta anche che quello che abbiamo attorno non ci cambia, ma non è così, ci cambia, anche quando non ce ne accorgiamo, ecco. E con questo ho finito la pippa del cos'è, sabato sera, sì, ho perso il conto, ecco, tutto qui. Allora, io non so se anche per voi è così, ma una cosa che ho riscontrato, diciamo, da un anno e mezzo, io organizzo eventi da un annetto e mezzo, quindi non da molto, insomma, con questa sorta di formula di palco aperto organizzato, che non è una jam, ma è una sorta di evento, dove una sorta di platform per artisti, dove si incontrano, no? E si conoscono, e dove possono partecipare tutti, no? Dall'artista che ha iniziato l'altro ieri, dall'artista che invece magari ne sa di più. La cosa che ho riscontrato organizzando questi eventi, che sì, le serate vanno bene, c'è un po' di affluenza, però non so se anche per voi è così, è veramente difficile far uscire la gente di casa. È complicato, cioè non so come dire, soprattutto con quelli più piccolini. Io faccio sempre l'esempio di mio fratello, perché lo vedo tutti i giorni. È difficile coinvolgere ragazzi giovanissimi. Anch'io sono giovanissimo, c'ho 24 anni, però adesso ci sono anche quelli che sono più giovani di me, no? È veramente, ripeto, è difficile riuscire a tirare in mezzo gli studenti, gli studenti dei superiori, perché sono attratti da altre cose. Poi, per carità, c'è qualche giovanissimo che ad esempio viene alle nostre serate e magari banalmente è arrivato lì con un'idea del tipo: il mio rapper preferito canta in playback, no? Anche lui è partito, anche questi ragazzi sono partiti cantando in playback, e poi dopo un po' di eventi hanno capito, no? E hanno tolto la canzone sotto, banalmente, no? E hanno iniziato ad avere un approccio un po' diverso a questa cosa. Però, ripeto, è veramente, ma veramente difficile portare la gente fuori da casa. Non so, cioè, ditemi anche se anche voi riscontrate questa cosa, ma è difficile. No, ma non solo i giovani, è proprio i giovani in particolare, però non... Sai perché ti dico così? Perché io ho sentito anche rapper forti, ho sentito dei rapper fortissimi che non vengono conosciuti, ma perché a volte è il messaggio. Tu puoi avere il prodotto più bello del mondo, che ci hai speso pure tutti i tuoi soldi, se ti sei impoverito, addebitato, ipotecato la casa, tutto quello che vuoi, ma se nessuno sa che te esisti, tu non avrai un riscontro, né positivo né negativo, e a quel punto dirai, ti farai mille pippe mentali pensando che il tuo prodotto non va bene, invece non è il prodotto, Oggi tutti abbiamo una scheda audio e un microfono a casa, quindi la crew che c'era una volta si è smontata. Siamo tutti uno contro l'altro, anche tra crew. Io sento pezzi di miei amici che dovevano cantare in tre e su quel pezzo c'è una persona. Poi dice, dopo registrerà pure quell'altro, dopo registrerà pure quell'altro. Il pezzo dopo che sento non è il pezzo, quel pezzo lì con tutti e tre. È un altro pezzo di quel tipo lì che dice, poi registrerà quello e quell'altro. Secondo me quello che manca è dedicarsi a una cosa comune con gli amici, tutti insieme. E poi un altro pezzo della crew deve essere quello che è come la persona che ti cerca i posti dove fare concerti. C'è quello che ti cerca degli sponsor, perché esistono anche gli sponsor. Uno si è fatto il culo e a un certo punto si deve pure fare due soldi con quello che fa, no? Non deve diventare ricco. Io faccio le fanze, metallo e cemento, tutti, tu quanto hai speso? Io non ho speso niente. I soldi, io sono andato in giro e li ho cercati, ho trovato degli sponsor e loro mi hanno dato dei soldi, 100 euro uno, 150 l'altro, così. E io sono andato lì con la mano a chiedere l'elemosina e qualcuno l'ho convinto e adesso le cose si fanno. Io ho capito questa cosa e quindi tutto quello che è dall'inizio fino alla fine lo faccio io. E quello che posso dire a un rapper o a chi organizza un evento è che devi capire tutto, da quando crei un prodotto, che può essere qualsiasi prodotto, CD, un cappellino, una fanza, fino alla distribuzione, fino a proprio tutto il ciclo produttivo, come proprio un'azienda. Cioè di pensare che economia, quando la studiavi a scuola, che ti parlavano del marketing, le 4P, e tu ti fumavi le canne, oggi ti servono, quindi devi riaprire quei libri delle superiori, perché lì molte volte c'è le risposte. Secondo me, poi magari mi sbaglio. Ma adesso che diciamo tante voci si sono espresse un po' sul tema, ascoltandole tutte nella mia testa, mentre sentivo le persone che parlavano, cercavo di trovare un po' dei collegamenti tra le cose. E una cosa che ho pensato è che all'interno della cornice il rap, l'hip hop è un po' lo specchio della società in cui si sviluppa ed esiste. Un po' delle cose che ho trovato che tornavano è che c'è una sorta di paradosso, per cui ad esempio il rap è super mega diffuso, ma è più difficile di un tempo scoprire nuovi artisti che non si aveva mai sentito, piuttosto che tantissime persone, ragazzi, cioè a me capita, come a diciamo tutte le persone che hanno a che fare con ragazzi e ragazze, che tutti ascoltano un sacco di musica, sanno a memoria un sacco di canzoni, però poi agli eventi dal vivo non vanno e si ascoltano la loro roba ognuno per sé. È molto più diffuso, ma è molto più superficialmente, quindi è un ascolto più individuale, anche più appunto in superficie, ma che poi non si concentra o non va più in profondità. Ecco, una cosa che mi è sembrato di captare è che c'è un po' questo paradosso, che è nel rap, ma come si è detto anche nel contesto in cui, per cui non so, tutti hanno a disposizione tantissima tecnologia, mezzi che anche solo dieci anni fa erano impensabili, ma poi con quei mezzi, o come si diceva, si fanno delle cose che poi non si riesce a condividere con altre persone per vari motivi, oppure si hanno tanti mezzi ma non si sfruttano come una qualsiasi persona anni fa avesse avuto quei mezzi, magari li avrebbe utilizzati in maniera più proficua, ecco. Quindi secondo me è interessante questa cosa, che ci sono proprio una serie di paradossi che poi in realtà poi stanno insieme e oggi è così, ecco. No, io volevo solo dire che in realtà rispetto a quello che diceva Fabio, io sono in realtà molto d'accordo con lui, cioè totalmente d'accordo con lui, però nonostante io sia noto per non essere una persona ottimista, cioè chi mi conosce lo sa perfettamente, penso che ognuno di noi è in grado di cambiarlo, no, questo contesto. Cioè ogni azione che noi facciamo, anche in modo impercettibile, in qualche modo modifica quel contesto. Quindi tanto quanto è vero che noi cambiamo rispetto al contesto anche senza rendercene conto, io credo e a passati 10 anni di questa esperienza, che non so come dire, è nata con faccio il laboratorio insieme a Esa e Chiara, che adesso sta allestendo la mostra. Abbiamo detto in giro che c'è un laboratorio, locandine, vabbè, si fa questo giorno qui, vado, speriamo venga qualcuno. A volte veniva gente, a volte non veniva nessuno. E, cioè, però, non so come dire, il fatto di aver continuato su questa strada e che quindi quelle cose fossero in qualche modo impercettibili, in realtà piano piano venivano percepite. E quindi in realtà piano piano il contesto, non dico solo noi, dico chi si adopera lo può determinare. Perché visto che dall'altra parte, tra virgolette, questa cosa avviene, io penso che sia possibile anche in positivo. Quindi nonostante magari a volte non so come dire, i risultati possano sembrare deludenti, io credo che comunque la strada del fare sia comunque sempre quella corretta, e che la possibilità di metterci in relazione uno con l'altro fa sì che magari da realtà microscopiche e che su contro delle realtà molto più grandi fanno fatica ad esistere, invece esistano e aumentino anche di dimensione, crescano. Quindi non so come dire, ognuno poi trova il modo per fare le cose migliori rispetto al contesto in cui è, però io penso che uno sforzo ulteriore, cioè di provare a metterci in relazione, sia quello scarto che è necessario per cercare di modificare il contesto. Ma dico una banalità, perché voglio essere proprio semplicissimo. Tipo 7-8 anni fa era stata fatta una mega mailing list con penso chiunque avesse fatto qualcosa, organizzato qualche evento a Milano, per cercare di fare un calendario comune per non accavallare eventi, in particolare quelli grossi, quindi non fare artisti grossi con serate altrettanto grosse vicine, eccetera eccetera. Ma come potrete immaginare da come sono andati l'andamento delle serate in questi ultimi anni, non ha funzionato. Cioè, mi sembra assurdo che non si riesca neanche a fare una roba del genere, quantomeno, non dico in toto, ma quantomeno in realtà underground, ci possiamo definire così. E io penso che potrebbe essere un passo zero per cercare di cambiare il contesto, arricchirci tutti senza... anche facendo una considerazione realista, che abbiamo tutti infinite forze e infinite possibilità, e quindi cercare di mettere diciamo a frutto il più possibile gli sforzi che già facciamo, senza doverne fare altri ulteriori per fare cose nuove. E quindi secondo me dovrebbe essere una cosa importante, cercare di pensare che quando facciamo qualcosa, quando organizziamo un evento, quando andiamo a fare un laboratorio, quando stappiamo delle locandine, delle fanzine, quando facciamo un disco sperando che faccia successo, ma perché il successo io lo so che per ognuno di noi, diciamo, significa fare in modo che quello che i propri sforzi vengano, diciamo, accolti positivamente dalle persone, non che siano direttamente valangate di soldi e di successo. Cioè, penso che la intendiamo così. Io penso che tutto questo sia possibile e che sia, non so come, non necessario, però penso che sia un momento abbastanza di svolta in cui, diciamo, il genere è sulla cresta dell'onda, e che quindi se fino a tot tempo fa potevamo sembrare tutti dei marziani, adesso possiamo travestirci e non sembrare più dei marziani. E io penso che dovremmo approfittare di questa cosa, perché forse anche sempre Fabio lo diceva prima, ci sono stati dei momenti in cui le cose potevano prendere una direzione e invece volutamente ne hanno prese altre. Penso che prima o poi sarà anche il turno di qualcuno di noi, e quindi penso che più riusciamo a far rete in questo senso, più riusciremo a portare avanti quella che è l'idea che abbiamo più o meno tutti di sta roba. Partendo dal presupposto che ci sono stati per me diversi spunti interessanti fino ad ora in questa conversazione, e volevo appunto allacciarmi ad alcuni di questi argomenti che sono stati inseriti nella nostra conversazione, dicendo che secondo me a volte un po' rischiamo di confondere quello che è l'hip hop per noi, o che è stato per noi sicuramente una parte importantissima, penso, delle vite di tutti i presenti, in tutte le sue forme e discipline, e quello che è quello che funziona a livello di ascolti, mediatico, insomma, boh, chiamiamolo come vogliamo, commerciale, che vende, che viene ascoltato, i numeri, no? Quindi noi confondiamo questa cosa, e soprattutto la confondiamo nel senso di dire l'hip hop per noi è stata una cosa, per i ragazzi di 20 anni, che hanno adesso 20 anni, che hanno adesso 19 anni, non esiste l'hip hop, nel senso che gli frega, non hanno visto il cerchio sotto casa dei b-boy, perché adesso arrivano i vigili se fanno il cerchio, lo so, cioè boh, a Pavia è così, prima era diverso. Quindi questo per dire, nel senso, noi è importante che noi portiamo avanti quelle che sono, che è quelle che sono le nostre discipline, che è il nostro credo in questa cultura che ha tantissimi aspetti positivi, che hanno influenzato sicuramente le vite di tutti noi, la collettività dell'hip hop, il rispetto nei confronti delle altre persone, tutte queste cose. Ed è bello che noi siamo qua oggi e in tutte le occasioni dove ci si ritrova a far festa, a fare degli eventi, a fare delle discussioni, a continuare a rappresentare per questa cosa che per noi è importante e che ci piacerebbe, e credo che questo vale per tutti, con la quale ci piacerebbe influenzare altre persone positivamente, no? I ragazzi più giovani di cui stiamo parlando. Però non è detto che quello in cui crediamo noi sia per forza una base per loro, perché appunto sono di un'altra generazione, sono nati in un altro contesto culturale che è cambiato, e ancora una volta sono molto lo specchio di quello che è adesso attualmente la nostra società, come lo è l'hip hop, perché è diventato molto più sulla insomma, c'è l'ego trip, il fatto del singolo, piuttosto che la questione collettiva. E questo, insomma, il punto che volevo fare. L'ultima questione sulla quale mi volevo soffermare era la questione delle tematiche che sono trattate nel nostro genere e nei generi che sono arrivati adesso, la drill e la trap. E fondamentalmente le tematiche, ora non uccidetemi, però sono quelle, nel senso, l'hip hop che abbiamo sempre ascoltato noi negli anni 90 parlava di strada, parlava di cose crude. Per quanto mi riguarda c'era più poesia prima, e il modo di spiegare la situazione era in qualche modo forse un po' più positivo. Ancora una volta la società è cambiata e la loro voce, è il loro modo di esprimersi, un nuovo modo che per noi è nuovo, ma è una forma di espressione. E quindi, insomma, era solo per dire che in realtà è un po' come se loro fossero i noi 10 anni dopo. Non so come dire, ma mi ci rivedo, anche perché spesso ho a che fare con questi ragazzi giovani in studio. Quindi. Ah, pardon. Cioè, non è colpa loro, cioè hanno i loro mezzi moderni ed è giusto che ne facciano uso, diciamo, nel miglior modo possibile. Però noto di recente, io non mi va di fare nomi, però lo devo fare, sono stata a un live di un ragazzo giovanissimo che adesso sta spaccando, che è Paki. Ragazzi, non ce la faceva, cioè sul palco non ce la faceva, non reggeva il palco, non aveva la voce. Se non fosse stato grazie ai suoi ospiti, lui non avrebbe concluso un concerto. Questo perché, piccola parentesi anche qui, forse anche colpa delle major. Io sono una fan anche del rap mainstream, perché ce ne sono molti bravi che tra i tanti spiccano. Però ci sono quelli che poi a livello musicale reale, se non te lo ascolti sul CD in cameretta, non ti dice niente. Cioè io sono rimasta veramente scioccata, ci sono rimasta malissimo, ho dovuto calare la maschera e dire non voglio avere pregiudizi, vediamo che dice sto ragazzo. Mi ha disturbato, cioè ho detto perché lo devi fare, no? Cioè, grazie a Luque, a tutti quelli che Marrakesh, ero lì sul palco, è riuscito a portare a casa il concerto. Poi non vi dico, anche a livello direttore artistico del palco, veramente, vabbè, diciamo, io poi sono col dente avvelenato in generale, e mi ha un po' scioccata questa cosa. Quindi c'è questa cosa qui che i ragazzi magari lo fanno male, ma lo vogliono fare a tutti i costi. Nessuno gli dice di non farlo, però un minimo di criterio. Poi cioè la cosiddetta knowledge, che poi è un po' alla base. Non possiamo criticare il ragazzetto di 20 anni, 16 anni che non conosce chi c'è stato prima perché magari non c'è passato. Però io ai miei tempi, diciamo, non sono vecchissimo, però ai miei tempi appunto sono partita, come dicevo prima, dagli articoli, poi sono andata indietro perché ho conosciuto tutti quelli che non erano poi così famosi ma avevano fatto la storia, e sono andata indietro con i pochi mezzi che avevo perché non avevo manco internet, cioè l'ho avuto poi a 18 anni, quindi è stato un passaparola generico con chi aveva la conoscenza, ah, ma questi li sentiti, no, questi no, e lì ti facevi una mini cultura. E ritorno all'inizio, appunto, non gliene possiamo fare una colpa, però secondo me se scegli di fare l'artista, comunque scrivere musica e fare rap, come minimo devi un pochettino farti una cultura. Non puoi fare l'insegnante di storia dell'arte se non hai studiato la storia dell'arte, cioè non puoi insegnare, non puoi scrivere un libro, non puoi fare lo storico dell'arte se non hai studiato prima, almeno hai delle basi. E poi, altra piccola parentesi, ultimamente sto frequentando molto le major e mi rendo conto che sono sempre i quattro artisti, fanno uscire un album, sono andata a vari incontri di album nuovi, sono sempre gli stessi che lavorano negli album degli altri, cioè se li passano tra di loro, e lì dici vabbè, tu che non lo sai, te lo ascolti, dici ah bello, c'è il tipo, c'è l'altro, però chi ci sta dentro dice ma che senso ha, cioè, lavorate tra di voi, bello tutto, ma gli altri dove stanno? Comunque perché non chiamare Tizio dell'altra major o magari no? Quindi è tutta una questione di soldi, marketing chiaramente, e funziona purtroppo così. Poi non so cos'altro dire al riguardo, cioè proprio un pochettino... La situazione è questa, però se ne può parlare all'infinito, ma sono d'accordo con te, anzi quando ci sono questi incontri di laboratori vorrei esserci volentieri. E bisogna spingere su queste cose perché bisogna avvicinare i ragazzi a quello che è la realtà, appunto i veri valori, diciamo, di questa cultura, e educare a non essere qualcun altro ma essere se stessi poi di base, perché lì la realtà delle cose, cioè sei real, fine, non c'è altro. Allora, prima di passare la parola anche a Luca, volevo dire una cosina al volo, perché alla fine Goss purtroppo ha ragione, cioè abbiamo girato tutto, ma Goss ha ragione sul fatto che comunque si cercano le cose in un modo perché ci sono queste possibilità, quindi si va in quella direzione. Faccio un esempio: l'altro giorno RCP ha suonato agli Alter Bay, che sono un festival vecchia Obey Obey, che fanno sul Cavalcavia Bussa. Situazione super mega spartana, un microfono in 5 direttamente al mixerino del DJ, così, però chi se ne frega. Tra le persone che c'erano lì ad ascoltare il concerto, e comunque erano parecchie, c'era anche un gruppo di ragazzi giovanissimi che rappavano, che erano infottatissimi con il live, e che poi dopo sono avvicinati al palco chiedendo se si poteva rappare un po', e siccome c'era un po' di tempo abbiamo dato il microfono anche a loro, e comunque il ragazzo faceva freestyle, ha fatto freestyle per 6-7 minuti di fila, potente, bravissimo, sapeva tutte le tecniche, perché finiva 2-3 minuti di freestyle, poi diceva ok adesso faccio extra beat, e faceva 3 minuti solo di extra beat, quindi anche che se l'era studiata, giovane. Secondo me, a vederlo, da quanto era felice, era forse una delle prime volte che lui si trovava in un contesto dove a un certo punto la gente dice vuoi parlare? E parla. Che se non è il tuo concerto, e quindi scusate, no, non ti volevo interrompere, come per dire, giusto per continuare il confronto, che in effetti hanno avuto 2 anni dove non hanno potuto fare un cazzo, e comunque in un'età dove tu hai 18, se io penso quando io avevo 18 anni cosa ho fatto da 18 a 20 anni, un sacco di serate tra quelle più belle che ho mai fatto, quindi c'è questa cosa qua, magari non l'hanno sperimentato, lo stanno sperimentando. Lo sperimentano così poco che poi quando finiscono sul palco, anche con numeri da milioni, ma non ci sono mai stati sul palco, quindi non sono in grado di tenere un palco, non l'ha mai fatto la gavetta, però anche qua sono sempre un po', pendo sempre un po' dal lato che non è in realtà una, non è una colpa, ecco. Noi ci piacerebbe trasferire sicuramente queste cose che noi abbiamo vissuto. Da un lato sicuramente il mondo di adesso magari lo permette meno, perché ci sono meno palchi per gente che si vuole esibire per 50 persone e tutti i palchi per quelli che ci hanno, non so, poi sì, sono d'accordissimo. E per finire, nel senso, quindi secondo me è vero, ma dare delle possibilità e dare degli esempi permette che se c'è qualcuno che vuole cogliere, raccogliere qualcosa, lo può fare. E quindi secondo me ci sta anche cercare di stare al passo con i tempi, ovviamente, perché è imprescindibile, però allo stesso tempo secondo me perseverare in quello che facciamo, perché comunque vedo che in generale le risposte un po' arrivano, cioè a stimolare. Poi è chiaro che è faticoso farlo. Poi rispetto alla questione delle major, cioè, posto che non voglio fare un discorso ideologico perché sarebbe, diciamo, limitante, però il punto secondo me è che la major deve produrre un profitto da un prodotto, tendenzialmente, ma quale che sia il prodotto non è importante. Quindi quello che a me mi fa paura e che mi spinge ancora a 37 anni a organizzare eventi musicali, cercare di favorire il laboratorio, uno studio di registrazione che è gratuito, che tutti possano attraversare, è perché a me sembra che queste major, tra virgolette, se ne approfittino dei ragazzi, che i ragazzi investano magari anche tante cose della loro vita, cioè credendo di far parte di una squadra, di un qualcosa, quando non è così. Perché se domani un artista X floppa il disco, la major lo scarica, non è che dice no poverino ti porto a... E quindi è un massacro tra persone per stare dentro quel gruppo, quando quel gruppo non è che gli interessa più di tanto di te. E la cosa che mi fa specie è che qua in zona ci sono magari rapper emergenti molto giovani che non hanno mai fatto un concerto, che magari hanno tre pezzi fuori, che mi dicono che stanno firmando un contratto discografico, che hanno 5.000 euro, 10.000 euro di budget per un video, e io non riesco a concepire come sia possibile che un rapper che ha tre pezzi su Spotify, un video sgrauso su YouTube e zero concerti, giovanissimo, firmi un contratto. Ma perché le major si accaparrano tutte le persone in questo modo e decidono loro quando farai il disco, se lo farai, eccetera eccetera, sì, con il budget per fare le cose, ma zero possibilità. E quindi a me mi sembra che sia proprio una trappola, no? per i ragazzi che fanno musica adesso, e quindi in qualche modo, cioè, devo fare sta cosa diversa per cercare di quanto più salvarne il più possibile. Adesso non voglio fare un discorso di salvifico, però tanti sono ragazzi di periferia che adesso vivranno un momento di apice, eccetera eccetera, ma io temo che la maggior parte di loro non avranno la lungimiranza di crearsi una situazione che gli permetterà di vivere di quello. Molti di loro, passati di moda, torneranno nel ghetto da cui sono venuti a fare la vita da ghetto che hanno fatto fino adesso, con i lumi di aver avuto un lampo di genio. Ma nel senso, io spero di no per ognuno di loro, però io temo che Pachi non sarà di moda per sempre e non saprà trasformarsi come Gue Pequeño in 20.000 sound diversi tutti sulla wave, e che quindi prima o poi in qualche modo, e tanti come lui anche che non hanno avuto il successo che ha avuto lui, temo che rischiano di fare la stessa fine. Quindi io penso che più situazioni noi riusciamo a creare attraverso il quale attirare gente che ha già più o meno, diciamo, amore per questo mondo, più c'è possibilità anche che questo mondo diventi, permettetemi il termine, egemone rispetto a ciò che esiste. Poi il contesto culturale e sociale è proprio avverso a questo tipo di cambiamento in questo momento, però almeno io penso, anche magari sbaglio, che i momenti più duri sono quelli che ci mettono anche poi di fronte alle situazioni verso le quali non puoi far finta di niente, quindi sono anche momenti di possibile cambiamento più radicale. Speriamo sia davvero così. Questo è sì. Aspetta, posso dire una cosa? Prego. Io sono Carlos di Metallo e Cemento, se qualcuno magari non lo sa, non mi conosce, sono Carlos. Secondo me oggi, quando qualcuno fa successo, la prima cosa che qualcuno dice è: tu hai leccato i culi, tu hai fatto quello, nessuno... E poche volte qualcuno ti viene a fare un complimento, tutti pronti a criticarti. Secondo me quello che c'è bisogno oggi è di dire a qualcuno: sei marcio, non sei appena iniziato, fai quello che vuoi fare, c'è la libertà. Uno può parlare di quello che vuole nei suoi pezzi, può parlare pure delle filastrocche, può fare quello che vuole, c'è la libertà. Poi chi spacca e chi non spacca, però quello è un giudizio. Cioè, la mia tipa può essere per me bellissima, per un altro può essere brutta, però per me è bellissima, quindi io continuo a stare con lei anche se tutti mi dicono che è brutta, o che magari sto insieme a un maschio e tutti gli altri mi dicono no, non devi stare con un maschio, se io ci voglio stare con un maschio sto con un maschio. Per me poi c'è un'altra cosa fondamentale, che è la fame. C'è gente che ha fame, c'è gente che... Io sono argentino, quando sono arrivato qua in Italia avevo 3 anni, ho vissuto in una roulotte, ho fatto delle cose che adesso mi ritrovo con delle persone che hanno avuto i nonni, hanno l'eredità, le case, le proprietà, io non ho niente. Sicuramente dentro di me io mi sento sempre incazzato, perché sono cresciuto vedendo chi aveva cose e io non le avevo, e io quelle cose là le volevo. Io sono andato a rubare, ho fatto tanti casini e oggi non li voglio più fare, e dico: l'unico modo per arrivare là è fare. Posso sbagliare, migliorerò, faccio, sbaglio, migliorerò, però non posso fermarmi e cercare di uscire con una cosa che deve essere perfetta. Devo fare e basta, quello è. Come per dire, nella jam, io organizzo una jam, la penultima jam c'erano 130 writer, c'erano dei ragazzini di 15-16 anni che mi dicevano grazie, perché loro non possono dipingere nei muri legali, perché c'è la gente che li picchia, li ruba gli spray, perché loro non devono dipingere, e loro magari non sono i numeri uno, però se hanno voglia di dipingere, perché non devono dipingere? Perché io devo dire no, tu fai, perché io devo dire mandami la foto dei pezzi e poi decido se tu vuoi partecipare alla mia jam? Tu, se vuoi partecipare alla mia jam, partecipa, vieni, pigliati la mia fanza, leggi, impara e segui la cultura e basta, fai quello che vuoi. Non devo giudicare io chi è bravo, chi è bello, chi è brutto. Ognuno fa quello che vuole, questo è il bello, secondo me. Bravo. Buonasera a tutti, io mi chiamo Lucas. Io sono un videomaker, lavoro nella periferia qua di Milano Sud. Con tutti questi ragazzi in cui voi avete detto che magari non sono bravi, non sono preparati o non sono completi. Però funziona così: noi stiamo parlando di un sogno, ok? Quindi in realtà noi dobbiamo aprire il cerchio e abbracciare questi ragazzi qua, è l'unico modo. Perché? Perché se io che ci sto provando, e se dentro del mio cerchio, cioè ossia persone simili a me, voi non mi aprite spazio, dove cazzo vado? Io continuo da solo, seguo la mia strada, anche se sbaglio, anche se non lo faccio bene, ma io lo sto facendo, capito? Io lo sto facendo, quindi dovete permettere alle persone di sbagliare, capito? Di provare. C'è anche, magari se tu non hai un storico, un bagaglio, è ovvio. Cioè, anche per esempio, parlando dei calciatori, sono sempre quelli più giovani adesso. Perché? Perché non hai tempo, perché se aspetti fino a che aggiunge l'esperienza, sei già vecchio. Sei già vecchio per chi? Per il pubblico che consuma. Chi consuma la musica digitale? Siamo giovani, siamo noi giovani, con Spotify, cioè ci sono le statistiche, ok? Siamo noi con la radio, poche robe, perché la radio vanno le cose proprio commerciali, no? Noi quando vogliamo cercare una cosa andiamo a cercare su internet, no? Poi c'è, oggi nel mondo ci sono due modi di crescita, era la crescita organica e la crescita sponsorizzata, no? Dentro di quello che stiamo facendo adesso qua si cresce organicamente, ma io vedo che la scena, per il fatto di avere quell'aspetto un po' old school, cioè non capisce bene se deve accettare questa sponsorizzazione, cioè non vuoi coinvolgere, capito, questo mondo qua, quando in realtà è soltanto un mezzo per raggiungere una fine, che qual è? Qual è la vostra fine? Qual è il discorso? Che cosa volete? Volete guadagnare soldi? Volete essere famosi? Volete dire un messaggio? Perché è quello che è la differenza. Questi ragazzi tante volte non hanno una cosa in cui fare e diciamo provo a fare quello. Perché? Perché la fonte di ispirazione che ho è la periferia vincente. Sfere basse, è la periferia vincente. Capito? È l'esempio che ho di cambiare vita. capito? E quindi noi in realtà dobbiamo cercare di fare che uno tra di noi spacchi veramente, perché quello ci ricorderà di noi e porterà un che a uno e spaccheremo tutti, ma è sempre uno a fianco all'altro. Va bene, Ispere Basta ha fatto il King, ma ha portato anche Capo Palasda, ha portato tutti quegli altri rappers, né? Quelli ragazzi giovani che ormai sono diventati commerciali. Perché? Perché le case produttrici come Warner, Universal, li hanno visti e li hanno presi, ok? Poi l'opportunità, io non ho esperienze per fare concerti, ok, dove li vado a fare? Capito? Io sono un ragazzino, se non arrivo nessuno che mi dice: oh bro, vai lì, parla con quella persona, dai il tuo nome e vieni qua a cantare. Io tante volte non lo so, capito? Per esempio Barrios io ho conosciuto tramite questa scena, se no non avrebbe mai sentito così. Quindi praticamente il discorso è che la scena è chiusa, come una volta è stata il rock, che si è autochiuso e è finito lì, perché dopo sono arrivati gli emo-core, quegli stili un po' così, che si è una variante, cioè dovevi fare le stesse cose, dovevi imparare a chitarra, dovevi imparare a cantare, ok? E il rock è chiuso e io vedo che il rap un po' sta chiudendo, perché sta arrivando le varianti, no? Che è la trap. Qui in Italia è arrivato la trap, qua si parla di rap e trap, ma non tanto di hip hop, capito? Che anche sono molto simili questi stili, no? E niente, è un po' quello che volevo dire, che c'è la scena è lì, i ragazzi stanno lì, i ragazzi vogliono fare il modo loro comunque. Anche io che per esempio che ho studiato, ho guardato, cioè, tante roba sui video, però arriva lì il momento, loro vogliono fare del modo loro, e è lì che sbagliano, perché giustamente tu deve aprirti, capito? Deve fidarti dell'altro, deve dire no, magari tu hai ragione, o magari no. Capito? Quello è il problema. Non, cioè, una cosa è buona per chi? Per te, per i tuoi amici. Ok, ma cioè, metti una scala più grande nella scena italiana, metti una scala più grande internazionale. Cioè, capito? Dipende molto dal concetto. Però, secondo me, il principale è dove vogliamo arrivare, che cosa vogliamo fare veramente. Vogliamo aprire, cioè, i spazi come abbiamo qua, dappertutto a Milano. Ok, quindi dobbiamo fare soldi. No? Quindi dobbiamo utilizzare i mezzi di sponsor. Perché? Perché ci serve per dare supporto a chi? A chi ne c'ha bisogno? La periferia, i ragazzi di periferia, capito? E noi per esempio, noi qua siamo già a un'età, cioè non siamo più ragazzini, almeno si vede che non sembriamo ragazzini. Quindi magari noi abbiamo una esperienza, una visione diversa per raggiungere quell'obiettivo lì, capito? E poi raga, magari sarà un ragazzo più piccolo di te che tu lo vedi, dice minchia questo ragazzo spacca, ti ispira, capito? Magari tu fai un feat con lui e tutti i suoi amici diventano i tuoi fan, capito? Perché? Perché tu hai fatto un feat con lui, ha dato supporto, ha detto vieni a Zan, registriamo lì, è gratis, capito? Registriamo, è gratis, vieni, parliamo con Lucas là, facciamo un video lì e così facciamo un scambio di persone per fare quello che vogliamo, ossia diventare famosi o guadagnare con quello che è la nostra passione. Comunque è questo che volevo dire. Grazie Lucas. Ma ormai io guardavo l'orologio, è più di un'ora e mezza che ci confrontiamo, discutiamo, e secondo me potremmo andare avanti all'infinito, perché appunto diciamo la tematica con cui siamo partiti è super ampia e cioè davvero si potrebbe andare avanti per sempre potenzialmente. Però già ora abbiamo detto un sacco di cose super interessanti e diciamo gli ultimi interventi che sono stati fatti secondo me hanno un po' tirato fuori la questione del sì, il rap, l'hip hop è cambiato e diciamo ostinarsi a però è cambiato in peggio, bisogna riportare in auge il vero spirito dell'hip hop eccetera eccetera è un po' poco, quantomeno poco efficace, perché nessuno ti caga più insomma se fai così. La cosa che però un po' è venuta fuori è noi abbiamo dei valori, un'esperienza, un modo di intendere questa roba qui, e la cosa che possiamo fare è offrire delle possibilità alle altre persone che questa cosa non la conoscono o che la vivono in un modo diverso, no? Quindi potremmo chiudere un po' l'incontro di oggi dicendoci troviamo il modo per proporre delle alternative, delle possibilità, delle... Noi la cosa che come Zammi Pop Lab proponiamo è, cioè abbiamo lo studio sopra, facciamo gli eventi qui a Zam, organizziamo le jam con la bella stagione nel parco qui di fronte, e tutte, di tutto un po'. Voci di periferia fa gli eventi come hanno descritto prima, eccetera eccetera. Pavia Male, Ghost hanno lo studio e fanno le loro ro, ognuno nella sua modalità. La cosa che possiamo dirci è: mettiamoci in rete in modo da potenziare ognuna di queste cose e fare in modo che sia una possibilità per più gente possibile. Ecco, perché appunto, come si diceva, quello che possiamo fare noi è offrire una possibilità, poi su 100 persone la coglie una, però già una bomba che l'ha colta quella persona lì, ecco. Quindi io personalmente mi sento di ringraziare tutte le persone che hanno partecipato, che hanno intervenuto, che sono intervenute o che non sono intervenute, sì, sì, che comunque sono qua, perché è stato un bellissimo momento. Certo, vai Tio. Secondo me non bisogna prenderla in una certa maniera tipo nostalgica, perché non muoiono certe robe nelle discipline, solo quello. Cioè, non muoiono. Se noi siamo qua a parlarne, non è che stiamo dicendo aria, non è fumo. Quindi la roba che secondo me sono piccole cose introduttive, soprattutto a livello di introduzione culturale per le leve più giovani di quelle che stanno emergendo, di cui avete parlato fino adesso, che sono i trapperini, quelle robe là, perché comunque sia loro, prima di fare quella roba lì, sicuramente avranno detto: ah, ma prima di questo c'era quello, sicuro al 100%, è impossibile, perché non è che prendi, io divento un cantautorato all'Abbattiato o una roba così, anche se mi fai la trap che mi fa schifo al cazzo, qualche base ce l'hanno, magari hanno deciso di fare altro, quindi vabbè, cazzi loro. Però poi secondo me a volte non bisogna dare consigli solo ai più giovani, bisogna dare consigli anche ai più vecchi e ascoltare pure i consigli ai più giovani. Ah, sicuro. Assolutamente, versatile, un ping pong di info, assolutamente verissimo Carlo, verissimo. No, infatti, cioè, così concludiamo la cosa, cioè, questa cosa è talmente vera che penso che la roba più grossa, che il regalo più grosso che ci ha fatto ESA sia stato esattamente questo. Cioè, comunque lui era già un artista famoso e affermato. Io sono, vivo a Milano da sempre, quindi posso dire che da quando ho memoria di hip hop, ESA era nelle situe con le persone, si spendeva nelle squadre, qualsiasi roba. Ma allo stesso tempo è uno che ha assorbito un botto di roba dagli altri, come stile, come capacità, come skills. Quindi verissimo, e secondo me ESA è una di quelle persone che... Vabbè, Fra ha portato la Germania qua, Germania e la Francia ha portato lui qui all'epoca, raga. Ha voglia. E quindi ringrazio tutti e tutte per essere stati qui. Se volete, ovviamente siete invitati a rimanere alla serata e non c'è bisogno che paghiate l'ingresso, perché siete venuti già dal pomeriggio, quindi a posto così. Nel caso poi chi vuole rimanere ce lo dice, lo timbriamo, così sappiamo già che è già entrato. Nel caso noi fra poco prepareremo da mangiare, quindi chi si vuole fermare faremo della pasta che venderemo a un paio di euro, quindi accessibile a tutti e tutti. Pasta hip hop stasera, esatto. DJ set pasta hip hop, brody. Ma devo chiamare Lucio e andarla a prendere, che non so che cazzo è finito. Pasta Rhymes. Pasta Rhymes. E niente, pasta Rhymes. Bella raga. Bro.